e in ogni canzone ci parli d'amore. Terra di grano e di fiori, di sole e di vino, di spine e di allori. Terra che resti nel cuore di chi per un sogno ti deve lasciare. Ogni paese è una festa, una banda che suona, una piazza, un caffè. Terra di santi e poeti, di troppi mafiosi e pochissimi preti. Terra di mille stranieri che trovano amore e non partono più. Terra rimasta nel cuore di gente che parte per terre lontane. Ma in ogni posto del mondo, dovunque tu vada, da solo non sei. Sentirai una radio che suona lontana. Canterà una vecchia canzone italiana. Riverai un balcone affacciato sul mare. Una canzone non chiede di più, ti porta dove vuoi tu. Di terre così non ce n'è, cara Italia, sarai sempre dentro di me. Cara Italia, la patria più bella che c'è. Cara Italia, io canto il mio amore per te. Suona lontana, canterà una vecchia canzone italiana. Riverai in un attimo il tuo primo amore. Passano gli anni e la vita, però una canzone no. Passano gli anni e la vita, però...